cantando ogni mattina quella flebile canzone che puoi dirmi in tua favella pellegrina rondinella, che puoi dirmi in tua favella pellegrina rondinella. Piangi forse al pianto mio e dovete sconsolato. Piangi, piangi in tua favella, pellegrina rondinella. Piangi, piangi in tua favella, pellegrina rondinella. Pellegrina